dire che da solo non ce la farei. E quando guardo dentro me stesso mi sento fragile. Non ho nessuna voglia adesso di accettare quello che c'è. Sarà che sono un po' depresso e non ho più margine. Io voglio il sole dentro me, io cerco il sole dentro di te. Io voglio il sole dentro me, io cerco il sole dentro di te. Io voglio il sole dentro di me per ritrovarti ancora alla mia braccia. Io cerco il sole dentro di te, la luce dell'aurora a sud del mondo. Il sole dentro me, a sud. Sono pronto sulla mia pelle da ovest a est a sud del mondo. Sei come un sole dietro l'eclissi, un pianeta isolato e vivo solo se esisti. Capisci lo scenario, ragazzo scuro, ti giuro, prima di te ero macellaio del mio futuro. Ho già promesso a me stesso di dire tutta la verità. Fra di noi non c'è sospetto né. Cerco il sole dentro di te, da ovest a est. Voglio il sole dentro me, sulla mia pelle, da ovest a est, da nord a sud del mondo, a sud del mondo. Io voglio il sole dentro di me per ritrovarti ancora tra le mie braccia. Io cerco il sole dentro di te. Da nord a sud del mondo, a sud del mondo, a sud del mondo.